477. Cotolette di arigusta. Prendete una arigusta del peso di grammi 650 circa, lessatela come indicato nella ricetta precedente, poi sgusciatela per estrarne tutta la parte interna che triterete all'ingrosso con la lunetta. Fate una balsamella nelle proporzioni e come quella del numero 220. E quando la ritirate dal fuoco, gettateci dentro la rigusta, salatela e dopo aver mescolato bene il composto, versatelo in un piatto e lasciatelo per qualche ora raffreddar bene. Quando sarete per formare le cotolette, dividete il composto in 10 parti uguali e facendole toccare il pan grattato, modellatele fra la palma delle mani alla grossezza un po' più di mezzo dito, tuffatele nell'uovo frullato, panatele ancora e friggetele nell'olio. Delle lunghe corna della rigusta fatene 10 pezzi che infilerete nelle cotolette quando le mandate in tavola, onde facciano fede della nobile materia di cui le cotolette sono composte. Possono bastare per 5 persone ed è un piatto molto delicato.